Chi condivide la propria vita anche con un cane sa di quale immensa risorsa può usufruire nell'imbastire relazioni umane e altrimenti ardue, se non improbabili. Il cane attrae spesso gesti affettuosi e altrettanto spesso quel che comincia intorno al cane si estende al padrone. Quando poi vi è una sorta di reciprocità, perché i cani sono due e i padroni sono due, le cose, soprattutto se i cani si prendono a ben volere, le cose dei padroni non possono che migliorare. È così che mi è capitato più volte di poter tornare a casa e raccontare di piacevoli nuove conoscenze. Come l'altro giorno, allorché grazie ai rispettivi cani ho potuto intrattenermi con una bella fanciulla e chiacchierare con lei come se fossimo vecchi amici, di caratteri, di diete, di piccoli aneddoti relativi ad intimità che nascevano spontaneamente canine e che in un balzo del discorso fattosi disinvolto diventavano umane, molto umane. È noto il potere attrattivo della simmetria, ovvero di quella ripetizione di rapporti tra moduli strutturali che in natura o per l'abilità di qualcuno risultano commisurati l'uno all'altro. L'ape preferisce far bottino di nettare nei fiori con i petali regolari. Se l'osservatore malandrino taglia in malo modo i petali di un fiore, l'ape se ne sceglie un altro. Le femmine delle rondini preferiscono di gran lunga quei maschi che hanno le code più lunghe e perfettamente calibrate tra la parte destra e la sinistra. Anche i maschi di un certo tipo di mosche risultano i più ambiti in grazia della simmetricità delle loro ali. E anche la specie umana, anche la specie umana predilige il simmetrico. Certi volti femminili, per esempio, sono scelti da tanti proprio in virtù del rapporto zigomatico e dalla commisurazione di questo con l'ovale complessivo della faccia. Certi dipinti li preferiamo ad altri per il gioco di simmetrie che il pittore, consapevolmente o meno, ci ha invitato a costruire. Certi racconti ci soddisfano per la misura delle parti che li costituiscono. E se andiamo a vedere la partitura dell'Arte della fuga di Johann Sebastian Bach, ci rendiamo conto che il tema iniziale, tanto coinvolgente, così efficace nel suggerirci una quantità di moto costante, il tema iniziale è caratterizzato dalla plurima ripetizione di un insieme di note. Tuttavia, non tutti i valori dell'estetico si riversano nella simmetria. Per ricitare un testo classico richiamato dall'Oliva poc'anzi, così come un Moby Dick, nella sua diversità diventa la preda più agognata, così spesso è la rottura di una simmetria a far compiere uno scatto improvviso nella gerarchia delle soddisfazioni dell'osservatore. Il fisico Feynman racconta del portale di Neiko, uno dei più bei portali giapponesi. Si tratta di un'opera molto elaborata, composta da una miriade di tessere, bassorilievi e colonne, teste di drago e figure umane scolpite nei pilastri. E a prima vista sembrerebbe composto di elementi tutti identici, ma avvicinandosi l'osservatore si rende conto che uno di questi elementi, uno solo, è scolpito alla rovescia. Altro esempio, Giotto. Giotto dipinge il suo San Pietro in trono come fosse affetto da un leggero strabismo e ottiene un certo tipo di attenzione. È lo stesso effetto che ottiene il poeta nel momento in cui improvvisamente cambia il metro del verso, magari una volta sola per poi tornare al metro consueto. Mentre la simmetria attrae sì, ma producendo una sorta di assuefazione, crea ridondanza, la sua rottura, una differenza nell'uguaglianza ripetuta, crea informazione. E questo, allora, è forse il senso di quel proverbio zen che assicura come la vera bellezza sia una deliberata, parziale rottura della simmetria. Il giorno dopo, con Papere, ripercorriamo la strada del giorno prima, più o meno la stessa ora, e la rincontriamo. La storia sembra ripetersi. Ci sta venendo incontro, sola, senza cane. Rallento il passo e le sorrido, come se fossimo sul punto di proseguire ovviamente la chiacchiera del giorno prima. Beh, la ragazza tira diritto e nemmeno mi saluta. A Papere poi glielo spiego. Vedi, le dico, le mancava il cane. E rotta la simmetria, ecco, d'accordo, ma pensa cosa ci abbiamo guadagnato in informazione.